Guardandomi in giro penso che come me anche tanti di voi è un po' che non andiamo più a scuola, vista la nostra età. Però forse ci ricordiamo che quando si andava a scuola i ragazzi più diligenti arrivavano puntuali, precisi, con i loro libri e se era giornata di interrogazione, invece di mettersi a far cagnara con gli altri amici, riguardavano la lezione, ripassavano, si preparavano. Amici, la stessa cosa dobbiamo farla venendo a messa, perché la messa è luogo di preghiera, ma è anche luogo di istruzione della nostra fede. Quindi dovremmo prendere il nostro foglietto, venire puntuali e invece di distrarci, leggere le letture. Forse in questo modo comprenderemmo sia lo sviluppo delle tre letture che normalmente sono collegate l'una all'altra, ma potremmo anche trovare alcune frasi particolarmente belle di fronte alle quali sentire il desiderio di fermarsi, un po' come quando uno fa una passeggiata in montagna o lungo il mare. La Proloco, negli scorci più belli, mette sempre delle panchine, perché di fronte a certi panorami ti devi fermare e guardare. La stessa cosa dovremmo fare di fronte alla parola di Dio e oggi vi voglio suggerire uno scorcio bellissimo che da solo vale tutta la passeggiata. Lo troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, la seconda lettura di oggi, e vi leggo il brano fermandomi poi sulla frase precisa. Anche noi, circondati da una tale moltitudine di testimoni, i santi di cui aveva parlato prima, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. La vita cristiana, la vita stessa, è una corsa, avendo un traguardo, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Ecco la frase: tenendo fisso lo sguardo su Gesù. Io credo che non ci sia una definizione più bella di fede. Fede, ve l'ho detto tante volte e lo ricordo anche oggi, non è religione. Fede è fidarsi, fiducia, affidarsi, confidarsi in Gesù. Tutto il resto, anche il venire a messa, se il nostro sguardo non è su Gesù, non è fede, è religione, è abitudine, è usanza. E che cosa vuol dire tenere lo sguardo fisso su Gesù? Vuol dire guardarlo in faccia. Io vi sottolineo tre aspetti che io ho trovato molto importanti per la mia vita e vi auguro che siano importanti anche per voi, fatto salvo il vostro personale modo di cercare Gesù. Il primo modo di tenere lo sguardo fisso su Gesù è leggere il Vangelo. Anzi, leggerlo attentamente. Il Cardinal Martini, grande biblista e grande nostro arcivescovo milanese, disse una frase: sottolinea il Vangelo. Io che lo faccio, sperimento che non è la stessa cosa leggere il Vangelo così o sottolinearlo, come uno studente ancora. Non è la stessa cosa leggere una pagina da studiare così e sottolinearla. È un'altra storia. Se tu sottolinei o la frase o a margine, ti salta subito all'occhio, ti entra di più nella mente. Questo è un modo di tenere lo sguardo fisso su Gesù. E questo, amici, è possibile farlo da soli, anzi, dobbiamo farlo da soli. Un secondo modo di tenere lo sguardo fisso su Gesù è guardare Gesù nell'ostia santa o quando è esposto sull'altare. Dobbiamo ricominciare, amici, ad adorare Gesù esposto nel Santissimo Sacramento, oppure nel tabernacolo. Nelle nostre chiese normalmente i tabernacoli sono illuminati, proprio perché quando uno entra in chiesa abbia lo sguardo attirato lì. Lì c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Tenere lo sguardo fisso su Gesù vuol dire anche pensare a queste parole mentre guardi l'Eucaristia, il corpo di Cristo, il sangue di Cristo, l'anima umana di Cristo, perché Gesù era vero uomo e la divinità perché era vero Dio. Cari amici, io credo che la grande crisi della nostra fede è perché non guardiamo più l'Eucaristia. Dunque, tenere lo sguardo fisso sulla parola di Dio dove c'è Gesù, lo sguardo fisso sull'Eucaristia che è il corpo di Cristo e infine, io ho trovato utilissimo e ve lo suggerisco, tenere lo sguardo fisso sui santi, ma amarli. Io ho avuto la fortuna nella mia vita di incontrare tantissimi santi, ma uno mi è rimasto nel cuore, Don Bosco. Conosco la sua vita benissimo, i suoi insegnamenti. Sono andato tante volte, ancora ci vado, sui luoghi che l'hanno visto vivo, attivo, l'oratorio di Valdocco, o Castelnuovo Don Bosco dove è nato, dove è vissuto. Perché tu, guardando una persona piena di Dio come un santo, come era lui, tu vedi Gesù. Per questo, amici, ancora oggi, dove ci sono dei santi, ci sono delle vocazioni. Ci lamentiamo che i nostri oratori non hanno più preti. Certo, i seminari, oggi è anche la giornata del seminario, i seminari sono vuoti, eppure dove ci sono dei santi ci sono ancora delle vocazioni. Perché? Perché uno guarda Madre Teresa e vede la fotografia di Gesù, ma vorrei far passare gli altri santi che ancora oggi ci sono, magari ignoti al popolo cristiano. Se vi dicessi Don Luigi Monza, vi dice qualcosa? Eppure è un santo milanese, un parroco milanese, che ha fondato tra l'altro un istituto di suore che curano i bimbi colpiti da grave handicap nella nostra diocesi e in giro per il mondo. Un prete sconosciuto, un parroco. Vi auguro dunque, cari cristiani, di trovare il vostro modo di tenere fisso lo sguardo su Gesù. Io vi assicuro che è un panorama bellissimo.